Ma sai, quando si parla di grandi opere, ma anche di nomine, di cose, una cosa che mi ha colpito sempre tantissimo e che l'ho riappresa l'ultima volta che sono stato in Val di Susa, proprio a Bussoleno. Una cosa che denunciava l'avvocato che segue i comitati, che ha fatto i ricorsi, è la mancanza di trasparenza. La mancanza di trasparenza che, cioè, in valle si è raggiunto il limite davvero assurdo, che non hanno ancora in mano tutti i documenti dei progetti, tutte le valutazioni, che perché non glieli possono dare, perché se gliele danno probabilmente danno delle armi in mano ai comitati, alle amministrazioni per contrastare e questa cosa che in qualche modo è davvero un cortocircuito dal punto di vista proprio democratico, perché nel momento in cui chi è il titolare della decisione, perché comunque alla fine i cittadini sono titolari anche della decisione perché eleggono, o ma anche se sono un amministratore che devo dare il mio parere vincolante o non vincolante, o se sono ho titolo per poter fare un eventuale ricorso e mi viene negato in una libera democrazia il diritto all'accesso agli atti, ogni riferimento alla situazione abietese puramente voluto, basta che non dici cugino. Si apre un cortocircuito democratico, e la cosa che più davvero credo che indigni, almeno per chi in qualche modo ha avuto modo di avere un rapporto conflittuale o comunque con il mondo della sinistra, è che gli artefici di questa cosa, anche a livello di Val di Susa, non siano i brutti fascisti o quelli del Popolo delle Libertà o i berlusconiani o i liberisti dichiarati, ma sono proprio gli eredi, cioè l'auditorium di Avigliana, dove sono andato a fare l'ultimo spettacolo con Luca Bassanese, è intitolato al papà di Piero Fassino, che è partigiano. E la cosa assurda è che proprio quelli che affondano le loro radici del movimento partigiano sono i protagonisti di questi cortocircuiti non ho capito. Che ci ha vissuto di rendita più caldo, ci ha vissuto di rendita, però vi assicuro che comunque se voi andate a Vercelli, quindi neanche tanto lontano da, e parlate di Chiamparino, dicono Chiamparino, che sindaco, no? Dal punto di vista proprio e non sanno quello che poi in realtà succede veramente a Torino, adesso presidente della San Paolo, e quindi ha fatto carriera. Ah, un'altra considerazione che mi ricordo era emersa quando abbiamo fatto degli incontri in università, adesso mi sfugge il nome del tecnico che avevamo invitato, era un tecnico fiorentino che era uno di quelli che aveva contribuito a progettare l'alta velocità. Era venuto anche a Magenta quando l'avevamo fatto, perché noi avevamo tentato anche l'opposizione della nostra linea. Io poi questa cosa della TAV mi prende molto perché abito a Ossona, che è probabilmente il chilometro più caro della TAV, perché abbiamo avuto 60 milioni di euro di spesa per la bonifica della Carra San Giuseppe. E per arrivare, la cosa che ci aveva detto questo professore era quello che non c'è un atto pubblico dove si firma, ci sono delle firme dove si dice facciamo il progetto della TAV. Lui ci aveva detto, guarda, è nato tutto in una riunione del Rotary a Pinerolo prima di Natale, poi non lo so, sono voci che ho sentito. Nel 1991 diceva, prima di Natale sono fatti il regalo. Poi basta. Cioè questo per dire la follia sul fatto che loro sono veramente nell'illegalità. Poi vabbè, questo non è una cosa che... Ma poi è proprio nato con la privatizzazione della ferrovia. Cioè, sono andati di pari passo, una è stata condizione dell'altra. See you.